Il trend dei decoder è sicuramente un trend che è, diciamo, importante, ma che ultimamente nelle regioni che subiscono lo switch off per ultime, tra cui la Sicilia nel 2012, ancora attendiamo la data, sta avendo un trend leggermente in calo, legato al fatto che il cliente preferisce acquistare il decoder integrato all'interno della TV direttamente. Anche perché un boom di vendite c'è stato prima. Esatto, sì, proprio l'evento dei mondiali ha portato una richiesta di decoder che ha, come dire, un pochettino esaurito la richiesta da parte del cliente. Il cliente è corso in anticipo. Possiamo fare qualche prezzo? Partiamo dal semplice decoder digitale terrestre che vanno dalla versione più economica, partiamo intorno alle 14,90, 19,90, fino ad arrivare a decoder molto più complessi con più servizi, arriviamo intorno alle 150, 100, 160 euro. E invece un TV con decoder integrato quanto costa? Partiamo dal prezzo base di 2,49, 2,99, a seconda poi del polliciaggio, ovviamente. Una piattaforma come il Cubo Vision. Nella grande distribuzione non è presente, però ci sono prodotti simili. Sono richiesti. Stanno iniziando a essere richiesti, sì. Su 10 decoder venduti, quanti sono digitale terrestre e quanti satellitare? Quasi tutti e 10 col digitale terrestre. Dobbiamo aggiungere poi che di questi 10 alcuni sono cosiddetti combo, cioè la possibilità di poter vedere non solo il digitale terrestre, quindi dal segnale dall'antenna, ma anche tramite la parabola. Quali sono le funzionalità che un consumatore chiede a un decoder? Sempre di più il collegamento oramai ad internet. Il cliente, mentre sta guardando il suo programma televisivo, può accedere a tutti quei contenuti multimediali o può ricevere anche una semplicissima chiamata su Skype o può vedere anche se qualche contatto su Facebook lo vuole rintracciare. Ci chiedono molto la registrazione dei canali o dei propri programmi sulla USB per poi visionarli quando ho più tempo libero. L'inserimento delle tessere prepagate per i veri operatori. Invece l'interattività con le trasmissioni TV, qualcuno vi dice di utilizzarla? Sì, oramai ogni marchio ha le sue varie applicazioni. Cioè, abbiamo avuto per esempio una volta un cliente che era molto innamorata dei quiz o Sudoku e ci richiedeva qualche prodotto che avesse queste applicazioni. Tutti chiedono decoder HD? Adesso sì, anche perché i televisori adesso prevedono l'alta definizione. Per quanto riguarda l'aggiornamento del decoder, cosa dobbiamo fare? Tutti i grandi marchi prevedono un autoaggiornamento del prodotto durante le ore notturne che si scarica automaticamente. Vediamo che la luce, anziché essere rossa, è già arancione. Quindi si consiglia di non spegnere il decoder. Il decoder non si spegne mai, proprio perché si interrompe questa funzione di autoaggiornamento. Quando non si aggiorna potrebbe causare dei problemi. La programmazione dei canali potrebbe subire cambiamenti. I consumatori si stanno preparando all'arrivo del digitale. Quali sono le domande che fanno a voi che siete gli addetti alle vendite? La domanda più richiesta è se tutti i canali che loro vedono sul vecchio televisore ci saranno sul digitale. L'altra richiesta che più ci propongono è sulla qualità, se c'è realmente un miglioramento nella qualità di visione. Onestamente si nota, anche sia a livello visivo che a livello di audio.